tutto tace ormai sotto questo cielo. È l'ora per me di lasciarvi. Ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora un po' e non mi vedrete, ma ritornerò, non temete. Voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà, la verità Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi me rimanete in me, come dei tralci alla vite che la linfa dà. E non vi lascerò mai soli, se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà, ed è già dentro voi. Questo pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà. E non vi lascerò più soli, se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà, ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere d'amore e verità. Questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli. Amore più grande al mondo non c'è. Dentro voi.